Steve a mis au point différents réservoirs. Ci sono novità anche sul Heute Journal mit Klaus-Peter Siebler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Bentornate, bentornati alla finestra sul cortile. Buona domenica dal vostro Riccardo Chiaberge. Sex and the City 2 è sugli schermi dei cinema di tutto il mondo e da una settimana anche nelle sale italiane. Ma in America pare non abbia uguagliato il successo del primo. Qualcuno addirittura ha parlato di flop. Ma perché piace tanto alle donne e così poco ai maschi? Che immagine di uomo, che idea dei rapporti tra i sessi viene fuori dalla fortunata serie TV e dal film che ne è stato ricavato? Diciamoci la verità, uno stereotipo, una serie di schemini e di luoghi comuni nei quali le platee maschili fanno fatica a riconoscersi, e forse anche le platee femminili. Ne parleremo con l'antropologo Franco La Cecla. E con un altro ospite, il filosofo Maurizio Ferraris, parleremo invece dei Platoni e dei Socrati in erba, del rapporto dei bambini coi maestri del pensiero e del tentativo di far conoscere la filosofia anche ai più piccoli. Ma intanto sentiamo cosa prevede il sommario di oggi. Francia. Piccoli Platoni crescono. Si può insegnare la filosofia ai bambini? America. Il biglietto da visita è morto. Viva il biglietto da visita. Visti dagli altri. Spagna. Italiani alla Fiera del Libro di Madrid. Non solo moccia. America. Perché Sex and the City non piace ai maschietti. Germania. Mangiare biologico fa bene alla salute, ma rende antipatici. Filippo portò con sé da Atene uomini come Aristotele per istruire il nostro popolo ruvido. Ora, se queste rane, guardandosi attorno, trovassero la loro posizione favorita al centro, la Grecia potrebbe comandare il mondo. Perché, maestro? Queste terre di cui tu parli sono tramandate come miti. L'India, dove viaggiarono Eracle e Dioniso. Tutti gli uomini che sono andati a Oriente, Teseo, Giasone, Achille, sono tornati vittoriosi. Di generazione in generazione si tramandano le loro storie. Perché? Se non ci fosse qualcosa di vero. I racconti delle Amazzoni, eh? No, Alessandro. Solo la gente comune crede a quei racconti, come crede quasi a ogni cosa. Noi siamo qui per educarci affinché non si ceda a tali sciocche passioni. Era uno spezzone del film Alexander, diretto da Oliver Stone nel 2004, e la scena riguardava appunto il grande filosofo Aristotele che dava lezioni, primi rudimenti di filosofia al giovane Alessandro. E proprio sul rapporto tra filosofia e giovani generazioni, anzi bambini, è dedicato un articolo di Françoise Dargent sul Figaro, intitolato Les petits disciples de Socrate. La Dargent ci racconta che in un teatro di Montreuil, vicino a Parigi, il Nouveau Théâtre, c'è stato recentemente un ciclo di conferenze, una specie di festival filosofia, come quello che da noi ogni anno si tiene tra Modena e Carpi, ma dedicato soltanto ai bambini, e in particolare riferisce che nella conferenza di uno di questi filosofi, Alain Badiou, si sono alzate molte piccole mani dal pubblico per porre domande al conferenziere, che parlava niente meno che di finito e infinito, cioè un tema piuttosto impegnativo per gli adulti, figuriamoci per i bambini che studiano alle elementari o al massimo alle medie, come era il pubblico di questo festival. Tra le altre domande c'erano, dice, ma se Dio ha creato l'uomo, e visto che è infinito, ma allora chi ha creato Dio? E quando si pensa a un uomo celebre dopo la sua morte, dunque è diventato infinito? e altre domande di questo tipo. L'iniziativa del Festival di Montreuil è di Gilberte Zaila, direttrice del teatro, la quale appunto sostiene che bisogna incominciare a istruire i ragazzi fin da piccoli sui concetti della filosofia, ma questa convinzione è diffusa anche tra gli editori francesi, perché ci sono da Gallimard a Milan ad altre case editrici che pubblicano collane o saggi di filosofia dedicati ai bambini, per esempio De bonne raisons d'être méchant, pourquoi la mort, Le corps et l'esprit, Le travail et l'argent, insomma altri titoli di questo tipo. Ma intanto diamo il benvenuto in trasmissione a Maurizio Ferraris. Buona domenica, no. grazie di essere con noi. Ferraris, ma il nostro Giovanni Gentile sosteneva che in realtà ai bambini non bisogna insegnare la filosofia, che è prematuro, che alle elementari bisogna insegnare i miti o le religioni, la filosofia è destinata a menti più sviluppate. A quanto pare in Francia non la pensano così, e in Italia? Ma in Italia credo che anche adesso la pensino come in Francia, cioè che tutto sommato, visto che i bambini, chiunque abbia visto dei bambini piccoli, vede che hanno delle domande metafisiche, perché sono molto astratti e sono molto curiosi, quindi non c'è niente di così sorprendente nel vedere domande, dei bambini che pongono delle domande filosofiche, per esempio a Badiou, questo tipo di domande, mentre lei ne parlava, mi ricorda che Saul Kripke, che è il più grande logico vivente, da bambino ha chiesto a sua madre, ma insomma, se Dio è dappertutto, noi dove stiamo? Com'è che c'è spazio per noi? Sono delle domande. Sì, domande a cui non ci sono risposte, loro sono abilissimi a fare questo tipo di domande. Quindi io credo che questo tipo di apertura nei confronti di filosofia per i bambini sia una cosa del tutto ragionevole. Lo dividerei un po' dall'idea invece dell'insegnamento della filosofia, e mi sembrano due cose un po' distinte. Ecco, spieghi in che senso? Nel senso che da una parte uno può incuriosire i bambini ponendo dei quesiti metafisici o rispondendo ai loro quesiti metafisici, sempre che uno ci riesca a rispondere, e magari anche inserire nomi di filosofi all'interno di tutti i nomi che i bambini studiano o imparano nel corso della loro vita, per cui insieme, non so, a Toro Seduto che ci sia anche Platone, non è poi così male che insieme alle Winx ci sia anche Aristotele, può essere un beneficio. Di lì a pensare di poter fare un insegnamento organico di filosofia per bene ai bambini mi sembra estremamente difficile da realizzare. Certo. Cioè, sono delle buone iniziative, però poi dopo la filosofia insegnata è un'altra cosa, e non è neanche così adesso, voglio dire, non è neanche così assurdo, così datato il detto di Gentile che bisogna imparare solo più avanti, eccetera, eccetera, eccetera. Non per i motivi che diceva Gentile, come dire, bisogna imparare soltanto favolette da bambini o religione, poi invece da grandi si impara filosofia, ma perché Gentile aveva un'idea che imparare la filosofia significa anche inserire le voci dei filosofi all'interno di un contesto storico, cosa che adesso è un po' passata di moda, ma secondo me è vero. Allora, sono convinto che per capire in maniera completa la filosofia bisogna avere già una cultura molto formata, cosa che per ovvi motivi i bambini non hanno. La nostra domanda è se adesso ce l'ha anche qualcuno che non sono i bambini, cioè se certo, a 20 anni oltre possono avere questa cultura molto formata che li rende disponibili alle delizie della filosofia. Quindi cerchiamo insomma di restare aperti alle domande, agli interrogativi che ci vengono posti dai bambini, ma non cerchiamo di spiegargli l'eterno ritorno di Nietzsche o l'imperativo categorico di Kant, che quelli magari li impareranno più avanti, se mai li impareranno. Bene, grazie a Ferraris, buona giornata, buona domenica e a presto. Che destino avranno i classici biglietti da visita nella società digitale, nell'era di Facebook e di Twitter? Apparentemente sembrano condannati all'estinzione, ma secondo Greg Beato, sulla rivista americana The Smart Set, in realtà hanno un grande futuro davanti a sé. Sono oggetto di feticismo, c'è gente che si fa fare addirittura dei biglietti da visita in bronzo, in acciaio, in rame, o in legno o addirittura in cioccolato. Mentre i profili di Facebook vengono continuamente rivisti e rifatti, mentre su tweets si scrivono cose come nell'acqua destinate a durare un attimo, il biglietto da visita è per sempre. Visti dagli altri. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia. La nostra rubrica settimanale sugli italiani celebri all'estero ci porta questa domenica a Madrid, dove è in corso la Fiera del Libro e dove uno dei protagonisti è il nostro Federico Moccia, di cui viene presentata la traduzione spagnola del suo Scusa ma ti voglio sposare, traduzione Perdona però quiero casarme contigo, pubblicata da Planeta. Ma non c'è soltanto Moccia, molto amato dalle giovani generazioni, in scena alla Fiera del Libro di Madrid, come spiega una docente di filologia italiana alla Complutense di Madrid, Aurora Conde. Ci sono grandi altri scrittori come Antonio Tabucchi, Claudio Magris, Alessandro Baricco, Umberto Eco e poi naturalmente i classici che non tramontano mai, da Giacomo Leopardi a Giacomo Casanova a Machiavelli. Certo, come spiega questa professoressa della Complutense, è difficile ottenere una traduzione buona in spagnolo e forse ai nostri scrittori piacerebbe sentirsi più spesso dire in spagnolo o in francese o in inglese scusa ma ti voglio tradurre. La finestra sul cortile. Dai dai, racconta. Lui mi ha accompagnata e... Scusa, non sei stufo di discorsi di donne? No, no, no, sto bene. Per un po' li reggo. Bene. Allora lui mi ha dato il bacio della buonanotte, io l'ho invitato su, ma mi ha detto di no perché aveva una riunione molto presto. Mi ha baciata di nuovo e ha detto che chiamerà. Due baci, molto promettente. Tu dici, anche se non è salito su? Certo, significa che gli piace ma che vuole andarci piano. Questo è carino. Berger, tu che ne dici? Vuoi davvero saperlo? Non è interessato a te. Mi dispiace dirlo, il motivo è che non gli piace un granché. Credimi, con gli uomini è tutto molto semplice. Se gli interessi, lui viene di sopra o si prenota per la prossima volta. Niente messaggi confusi. Era uno sketch tratto da una puntata del serial televisivo Sex and the City, e proprio nel momento in cui il secondo film ricavato dalla celebre serie approda sugli schermi di tutto il mondo, compresi quelli italiani, Lori Penny sulla rivista inglese Prospect si domanda perché i maschi non amino Sex and the City. E dice, la ragione è che molti, soprattutto nel pubblico maschile, lo considerano un programma stridente, frivolo, basato su dicotomie sessuali stereotipate, in cui i maschi vengono presentati come delle bestie aliene tenute al guinzaglio dai loro genitali. Tra l'altro cita una battuta di una delle protagoniste del serial, Samantha Jones, che dice l'unico posto dove puoi controllare un uomo è a letto. E sostanzialmente però, scrive Lori Penny, dietro questa polemica sfacciata contro il potere maschile si cela sostanzialmente la rassegnazione ad un patriarcato, ad una situazione in cui immodificabile, in cui le donne continuano ad essere degli oggetti di desiderio. Tant'è vero che i protagonisti maschili incarnano insomma due tipi di uomo opposti, ma comunque congruenti congruenti e confacenti rispetto ad un modello di rapporti tra i sessi molto tradizionale. In pratica, gli unici alleati delle donne nel serial Sex and the City sono i gay. Ma sostanzialmente, scrive Lori Penny, la ragione per cui i maschi si arrabbiano tanto è perché da questi telefilm capiscono come ci si sente a essere una donna, perché tutti gli altri programmi televisivi vedono le donne come donne oggetto. Quindi sostanzialmente qui, presentando i maschi in una luce così negativa, in qualche modo si ristabilisce un certo equilibrio. Ma intanto diamo il benvenuto a Franco La Cecla, che è al telefono da Parigi. Ringraziamo di essere qui con noi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Franco La Cecla, antropologo, ha da poco pubblicato un saggio, Modi bruschi, antropologia del maschio, pubblicato da Eleutera, che probabilmente ha fatto imbestialire le femministe, perché tra l'altro sfida quello che scrisse una volta Simone de Beauvoir nel Secondo Sesso: un uomo non si metterebbe mai a scrivere un libro sulla situazione particolare di essere un maschio. Invece il suo libro è proprio su questo, vero? Cioè il punto centrale è la condizione dell'uomo. Parte da questa sfida della Beauvoir, nel senso che, insomma, secondo me invece adesso, mai come adesso, questo è un momento interessantissimo, perché gli uomini non solo proghino su che significa essere maschietti, ma in qualche modo è un momento in cui c'è una generale crisi di entrambe le identità, e quindi, insomma, e quindi questo qua è un lavoro che ho fatto, è un lavoro di antropologia, cioè un lavoro un po' su, diciamo, comparativo su molte culture, su cosa accade, su come si diventa maschietti e uomini in differenti culture. Però ecco, diciamo che è un'esplorazione politicamente scorretta della dialettica tra i sessi. Ecco, a lei piace Sex and the City o fa parte di quella parte del pubblico maschile che lo trova disdicevole, sgradevole? Allora, io non l'ho visto molto, devo dire che ho visto, ma a me sembra una specie di concentrato un po' di banalità, fa con grossissima perizia, con grande abilità, diciamo, tipicamente americana, di mettere insieme le cose. Le attrici sono molto brave, però poi in realtà sembra una carrellata di luoghi comuni, in realtà, cioè secondo me un po' Sex and the City è un po' il canto del cigno del sesso, se questo è il sesso, nel senso, in qualche modo è una specie di dichiarazione di generale fallimento dei rapporti tra uomini. Sì, è un messaggio molto nichilista, in pratica, non, quello che lei chiama il malinteso, no? che c'è fra i sessi, qui impera sovrano e però non ha sbocchi in nessun tipo di rapporto stabile. Sì, poi insomma sembra quasi che sia scritto da dei medici, nel senso che in quel modo, appunto, sembra che uno debba essere costretto a fare sesso nella vita, piuttosto che gioirne, o piuttosto che farne una componente importante della sua vita. Cioè lì c'è questo grande psicanalista che si chiama Adam Phillips, che dice che noi siamo in una società in a un certo punto tutto viene fatto per liberarci dal sesso, cioè per sbarazzarsene il più presto possibile. Un po' è quello che fanno loro, cioè in qualche modo è come se ci fosse una specie di cosa di ossessione, fare. Certo, di ossessione da cui bisogna liberarsi. Bene, noi ringraziamo Franco La Cecla, buona domenica e a presto. A presto, grazie. L'uomo è ciò che mangia, diceva il filosofo tedesco Ludwig Feuerbach un secolo e mezzo fa, e gli psicologi nutrizionali di oggi confermano che aveva ragione. Infatti, ci racconta il nostro Alessandro Melazzini, secondo gli scienziati riunitisi a Potsdam in Germania qualche giorno fa per partecipare al convegno sulla biologia del comportamento nutrizionale, pare possibile associare a ogni tipo di comportamento a tavola un profilo psicologico del mangiatore. Per esempio, chi predilige le spezie o i piatti saporiti è spesso in cerca di avventure e novità, mentre chi esagera con la birra tende a essere egoista anche a letto. Chi si nutre solo di cibo biologico è certo più sano dei primi due, ma rischia di apparire pedante perché è convinto di alimentarsi meglio di tutti e di poter dare lezioni al resto del mondo. E per oggi è tutto. Ringrazio Vittoria Mussini in redazione, Filippo Aureggi in regia, Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a domenica prossima, stessa ora. Scrivete le vostre mail alla finestra sul cortile @radio24.it. Buona domenica a tutti.